Ah, belli! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati su Radio Wombat. Benvenuti al secondo appuntamento, alla seconda puntata di Diabolus in Musica. Scusate il ritardo, ma il mio cellulare del cazzo ha deciso di disconnettere il computer all'ultimo minuto prima delle 4. Allora, vi avviso fin da subito che la puntata di oggi sarà molto diversa da quella che ho fatto l'altra volta. E voi vi starete chiedendo perché. Bene, lunedì di questa settimana, lunedì scorso, un lunedì qualsiasi di un febbraio di un anno di merda, ci è pervenuta una notizia scioccante. I Daft Punk si sono sciolti. I Daft Punk si sono sciolti. Siamo tutti tristi, sconvolti e spaventati da questo infausto avvenimento. Spaventati perché tutti i nostri riferimenti musicali stanno praticamente scomparendo e chissà quando in futuro il vuoto che questi artisti stanno lasciando verrà rimpiazzato. Si spera presto perché ce n'è un cazzo di disperato bisogno. E io che speravo il loro tour mondiale dopo questa cazzo di pandemia. E invece no, bisogna patire, ragazzi. Patiamo. Quindi, ragazze e ragazzi, sospendo la rubrica sul Doom per oggi e faccio uno specialone sui Daft Punk, su questi brutti bastardi che ci hanno lasciato con una manciata di CD e che potevano farci godere ancora un altro po'. E invece è andata così. Quindi spero vi piaccia l'idea e che siate in un posto comodo per poter ballare e dimenarvi. Io sono l'elettricista e questo è Diabolus in musica. Sigla! Questa Fringuelli era Robot Rock, tratto dal loro terzo album Human After All, dei Daft Punk, ovviamente. Ma andiamo per ordine. Parliamo un po' di questi Daft Punk. Allora, nascono a Parigi nel 1993. Vengono fondati da due giovanotti francesi dediti alla meccanica e all'elettronica. Dalla forte popolarità che ebbero verso la fine degli anni 90 all'interno del movimento musicale della French House, nel corso della loro attività artistica hanno collezionato stratosferici successi mondiali sfondando in tutti i campi, ottenendo così meritevolmente la nomea di una delle band di musica elettronica più significative e importanti della storia del mondo. La loro fantastica estetica ipertecnologica dal gusto retro gli ha permesso di infissarsi anche iconograficamente nella memoria di tutti. Chi non conosce i loro elmetti robotici che sembrano usciti da un film di fantascienza degli anni 70 e non gode nel guardarli? Elmetti che furono creati, a detta degli due artisti, ispirandosi al film Il fantasma del palcoscenico di Brian De Palma, film stratosferico nella vita. In inglese Phantom of the Paradise. Per chi non l'avesse visto, vada a vederlo subito correndo da casa sua nella vita. Per il film è essenziale per il duo parigino, quindi ok. Allora, i due iniziano la propria carriera musicale fondando nel 92 con un altro membro un gruppo rock che si chiamava Darlin. Dopo la pubblicazione di alcuni singoli, ricevettero una terribile recensione da una rivista britannica, che definì la band a Daft Punky Trash, un gruppetto di stupidi teppisti. Da questa definizione, dopo che il duo sciolse il gruppo Darlin, ebbero la geniale idea di usare quella spregevole definizione per creare il nome della loro prossima band, e così nacquero i Daft Punk. Da qui in poi iniziarono a sperimentare con i sintetizzatori e le drum machine e crearono il loro riconoscibilissimo stile, sia estetico che musicale. Dopo aver pubblicato alcuni singoli, le grandi case discografiche instaurarono una dura lotta per accaparrarsi le prestazioni di questi due musicisti. Alla fine a spuntarla fu la Virgin, con la quale il duo pubblicò nel 1997 Homework. Il disco, una miscela di house, funk, techno e breakbeat, raccolse un enorme successo e vendette milioni di copie in tutto il mondo. Ma procediamo con l'ascolto, ragazzi e ragazze. Questi brani, tratti dal loro album di esordio del 1997, dal nome appunto Homework, suonano come un robot che trasuda ecstasy da ogni bullone e ingranaggio, dal quale fuoriesce una musica dance robotizzata, che ci piacerebbe tanto ballare nudi nel tenero buio di una discoteca. Ragazzi e fringuelli, questi sono i Daft Punk. Thank you. Questa era Da Funk tratto da Homework, adesso subito spediti con Around the World. Yeah. Questi fringuelli erano i Daft Punk, nella precisione questa era Around the World, tratta dal loro album d'esordio Homework. Bene, adesso ragazzi seguitemi un attimo. Immaginate questi due robot che arrivano sulla Terra, da chissà quell'universo. Rimangono affascinati dalla musica degli esseri umani e decidono di imitarla. Ne fagocitano tutti i suoni, le sue musicalità, inserendo tutto nelle loro memorie bioniche avanzate. E ricalibrano, rielaborano e reinventano. Una volta fatto questo, la risuonano. E quello che ne esce fuori è una musica filtrata attraverso una meccanica fantascientifica che ne robotizza l'essenza. Hanno simulato la vita, hanno campionato l'essere umano e ne hanno fatto un inno alla sua vita su questo pianetuccio disperso nel nulla. E il miracolo di tutto ciò è che due robot, non degli uomini, ma due robot, hanno reso immortale la musica, rendendola invulnerabile al tempo che tutto consuma e dimentica. Che ne dite? Pensate che era questa l'esperienza che volevano farci vivere? Non lo so. Quello che è certo è che questo secondo album del duo parigino è una celebrazione della vita umana, un inno ai suoi albori e alla sua meravigliosa e misteriosa esistenza. Balliamo, ragazze e ragazzi, balliamo. Me. Never.

come volevo altro Giorgio, ragazzi, Giorgio Moroder. Questo è appunto Giorgio by Moroder, tratta da Random Access Memories del 2013 dei Daft Punk. Ve la lascio finire e poi parte Instant Crash. We'll be right back.

lunga vita ai Daft Punk. Vi lascio con questa ultima canzone tratta da Random Access Memories e vi saluto. Pace e amore, ragazzi.